Terza nazione del Sud America per dimensione, il Perù è un paese con una ricca storia e cultura. Sede dell'impero Inca, la quale costruì una vasta rete di strade e città, tra cui la famosa città di Machu Picchu. Sopravvive la Quechua, una delle lingue indigene più parlate in Perù, oltre allo spagnolo. Questo luogo di storia millenaria attira milioni di turisti da tutto il mondo, compresi noi. Quindi ci siamo decisi a tornare in Sud America per assaporare un panino tipico, ricco di gusto e consumato in tutto il paese. La scelta è ricaduta sulla butifarra limena, un pane a forma di rosetta ripiena di gemon de pais, un prosciutto cotto affumicato alle erbe. La ricerca della parte alcolica, invece, ci ha condotti al pisco, liquore derivante da una varietà di uva pisqueras, che abbiamo già avuto modo di assaggiare. Viene consumato largamente in molti paesi sudamericani, con qualche variante di aroma. Abbiamo fatto una selezione di 3 cocktail che speriamo siano di vostro gradimento. La cena verrà svolta nel convento di Santo Domingo, costruito sulle rovine del Tempio di Coricanca. Il biglietto d'ingresso viene 15 euro. Il proverbio locale dice: «No hay mal que dure cen anos, ni cuerpo que lo resista». Non c'è male che duri 100 anni, né corpo che lo resista. Grazie per l'ascolto.